accesa, una TV che spiega come il mare blu m'annega, che nel torbido si annega. Poi uno slogan che ti frega, parti in Africa con schiavitù. Non c'è intesa, le guerre che ci pesano, la gente è mezza scesa in piazza e un'altra mezza stesa sul divano in dopo spesa. Da domani non usciamo più. Va così, è un mondo così, la pace in strada marcia, ma un'auto in retromarcia fa una guerra ai sensi. E sì, è un posto così, di prendersi e lasciarsi, monumenti o pezzi sparsi. Siamo tutti qui. Barca a vela e lume di candela, sanno di natura o mela, ma l'utente medio in jeep dove non gela si climatizza dentro. Stiamo attenti, ma c'è una rima in sentimenti e forse c'è un motivo. Non so più cosa scrivo, sarà lo stesso quel motivo. E sì, è un mondo così, di botti piccoline vino a stemmi e mogliette si fatte male. Sì, è un posto così, di prendersi e lasciarsi, monumenti o pezzi sparsi. Siamo tutti qui. Strada marcia, ma un'auto in retromarcia fa una guerra ai sensi. E sì, avanti così, riprenderci e lasciarci, a passi farsi bene e andarsi avanti.